Aprono oggi le prenotazioni per lo spettacolo Eredi Eretici in scena nel cortile dell'Istituto Penale Minorile di Bologna nel mese di settembre. Siamo qua con Paolo Brilli, regista e drammaturgo, che insieme ai detenuti presso l'Istituto Penale Minorenni di Bologna ci presenta una nuova edizione dello spettacolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Innanzitutto, a che edizione, se così si può definire, siamo arrivati e qual è il tema che ci viene presentato quest'anno? Questo è... ormai sono 20 anni di lavoro all'interno dell'Istituto Penale e non è il 20° spettacolo, perché c'è stata una pausa di 3 anni di presentazione di spettacoli all'interno dell'Istituto, quindi come dire, il numero degli spettacoli non corrisponde agli anni di attività. Eredi Eretici è uno spettacolo che ha già debuttato a Bologna, all'Arena del Sole, a gennaio di quest'anno, è realizzato da una compagnia di ragazzi dell'area penale esterna, quindi di tutti quei ragazzi che hanno misure alternative al carcere. Ora invece, a settembre, lo stesso spettacolo, realizzato con una compagnia invece di soli ragazzi ristretti nell'istituto penale minorile, e quindi si fa una nuova edizione che sostanzialmente poi sarà un nuovo spettacolo, perché viste le caratteristiche del mio lavoro non è che si va a rimettere pedissequamente in scena qualcosa di già fatto, tiene sempre in considerazione le personalità dei ragazzi e di conseguenza lo spettacolo avrà un'altra... Certo, nuovi protagonisti, quindi... un'altra vita, ecco. Esatto. E qual è un po' il filo rosso, il filo conduttore di questo spettacolo? Di cosa si parla? Lo spettacolo Eredi Eretici parla di figli che cercano gli occhi del padre, cercano di avere un contatto con questa figura che risulta sempre più assente, e su questa scena, come dire, che è metafora dello spettacolo stesso, che è un enorme piano inclinato, e questi giovani, questi ragazzi continuamente scivolano, rotolano, cercano di salire, ma in qualche modo sono sempre risucchiati verso il basso e si rivolgono continuamente in questa ricerca di padri, chiedendo di essere guardati in faccia, di essere ascoltati, padri che chiaramente non ci sono però. È importante anche la struttura scenografica dello spettacolo. La struttura scenografica è fondamentale perché permette un certo tipo di teatro, perché è un teatro poi eminentemente fisico, con un testo molto importante, ma che prevede una presenza fisica notevole da parte dei ragazzi, ed è un lavoro complesso da fare e da preparare, anche perché poi è tutto estremamente formalizzato, non si improvvisa mai. Certo, e quindi è un lavoro poi quotidiano, sarà un lavoro quotidiano di 45 giorni continuativi per essere in grado di proporre lo spettacolo. Quest'anno c'è stata tanta adesione da parte dei ragazzi, ci diceva prima che siamo arrivati a 15 ragazzi su 22-24 presenti all'interno, esatto, del carcere. Quanto è importante per questi ragazzi questo progetto? Beh, quest'anno l'impressione, la mia sorpresa, solitamente io lavoro con circa 10 ragazzi, quindi con metà dei ragazzi presenti. Quest'anno c'è stata questa grande adesione che, come dire, mi ha sorpreso, e c'è un'aspettativa che non so da dove tragga origine. Ci sono alcuni di questi ragazzi, 5, che si conoscono da un po' di tempo, da alcuni anni, con cui si lavora, quindi probabilmente hanno fatto una... sono stati loro promotori di questa... questa cosa, quindi è un aspetto molto positivo. Parlavate già di progetti futuri, perché già a gennaio si ripresenterà... Sì, a gennaio Eredi Eretici è la prima tappa di una trilogia dedicata a padri e figli. È già iniziato il lavoro per la seconda tappa, che verrà presentata all'Arena del Sole sempre di gennaio, l'8 di gennaio, che ha per titolo Le orme dei figli. Orme dei figli, ribaltando quel luogo comune per cui sono i figli che seguono le orme dei padri. Allora, si parte dalla distruzione di questo luogo comune. Perfetto, ricordiamo ancora una volta le date, le modalità in cui ci si può prenotare per vedere questo spettacolo. È necessario scrivere una mail a teatrodelpratello@gmail.com indicando il giorno in cui si desidera partecipare, dal 3 al 6 settembre, ma soprattutto allegando un documento, la fotocopia di un documento d'identità, perché tutto questo verrà inviato all'autorità giudiziaria competente, che dovrà rilasciare il nulla osta. Quindi prima arrivano le richieste, più sono le possibilità che queste siano accolte. Perfetto, grazie mille ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi.